Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, anche oggi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura, gli incontri di Voci in scena. Nasce nel 1993. Enrico Enriquez Greppi, cantante franco-lussemburghese fiorentino, coinvolge Alessandro Finazzo, detto Finaz, a fondare una band che comincia a suonare in Italia e in Francia, per locali e anche per strada. Il primo album, Il Circo Mangione, nel 1996 vince il premio Ciampi. Il successo è confermato col secondo album, Iniziali BB. Nel 2000 esce Mojito Football Club, ma è con Bondo Bondo nel 2002 che la band ottiene un successo internazionale, con un tour in Spagna, Francia e Svizzera. Seguono Tre Passi Avanti, Fuori Orario, Ottavio, Allegro Ma Non Troppo, 7x1 e nel 2011 Scaccia Nuvole. Dopo 3 anni di pausa, nel 2014 esce L'Improbabile. Quest'estate stanno suonando in tutta Italia. Loro sono la Banda Bardot. Ma fa un'impressione meravigliosa, soprattutto per come è stato fatto, per aver verificato con mano quanta voglia e quanta ilarità e quanta gioia, che divertimento c'era fin dalla scrittura. Insomma, credo che sia, per chi ascolta, avere in mano un disco fatto divertendosi e fatto sbizzarrendosi nella propria immaginazione, nel proprio gusto, sia una gran cosa. Io spesso sento della musica un po' fatta, ci senti la paranoia di dover essere commerciali, di dover usare una parola che funziona, di dover copiare o il suono di successo oppure addirittura una tua canzone che prealabilmente ti ha portato a certi livelli. Ecco, noi ci siamo ristupiti, come ogni disco, che le canzoni venissero in maniera così naturale, che ne venissero così tante. A questo giro siamo riusciti, nell'impresa titanica, di mettere d'accordo 8 toscani, che senza, sai che noi siamo i re del borbottio, della polemica. Non siamo contenti se uno è felice per una cosa, noi prendiamo immediatamente l'altra strada per contrastarlo, siamo così. E invece a questo giro non solo tutte le canzoni ci piacciono, cosa che solo una volta nel 2008 era successa con Ottavio, ma tutte le canzoni siamo convinti di avergli dato il vestito giusto, le abbiamo suonate con violenza, con energia, con pathos, con passione, e anche i pezzi più rarefatti, più morbidi, hanno una forza, una grinta che poi siamo come se fossimo dal vivo. Insomma, per cui avere oggi il disco con la copertina di Jacopo Fo, con tanti amici che hanno partecipato, tanta Milano anche dentro, e soprattutto a livello di rapporti umani è andato tutto così liscio, così bello, è una soddisfazione enorme. Chi non fa più dischi e fa soltanto file che vanno su internet, insomma, sono affari suoi, non siamo qui per giudicare, però ecco, almeno farne un po' per chi ancora crede nel disco è giusto. E poi per 30 secondi, per la prima volta, abbiamo avuto il dubbio se continuare a fare il disco in maniera tradizionale oppure studiare un modo alternativo, però è durato veramente 30 secondi. Poi il dubbio è immediatamente. Abbiamo detto pagava. E allora abbiamo detto, ma sì, dai. Come sei sincero? Sì. E allora fanatico il cuore resuscita. E allora frenetico il cuore si agita. Visto che l'abbiamo detto, sgomberiamo subito il campo da tutte le polemiche possibili, perché ci troviamo nella tana del lupo, siamo nel palazzo di una major. I vostri fan come l'hanno presa? Perché a volte i fan, ecco, perché sono più realisti del re spesso, ma sono anche più romantici dei romantici, nel senso, hanno questa visione della multinazionale come del nemico dell'umanità. In gran parte hanno ragione, però ecco, la Warner non è la Monsanto, non è la Shell, non affama nessuno, non schiavizza nessuno, non toglie nessun albero in Amazzonia, e comunque ti arrivano questo genere di protesta, ti arriva scritto da un iPod fatto in Corea o su un computer che è di Bill Gates. Insomma, è molto difficile. Io credo che la parola indipendenza sia una parola molto importante su cui non sbagliarsi. Indipendenti vuol dire, nel nostro caso, fare un disco in totale solitudine, decidere una copertina in totale solitudine, realizzare il disco e poi farlo sentire, in modo tale che non ci siano proprio problemi di ingerenze, semmai qualcuno che la Warner avesse voluto farlo, ma non è così. Sono favole quelle in cui entri in casa discografica e ti dicono questa parola no, questo vestito no, dal vivo fate così e cosà. Sono persone, partner fondamentali affinché il disco venga costruito, il disco venga spedito da nord a sud, il video venga spedito, vengano contattati i giornalisti, che noi non lo sapremmo fare. Insomma, abbiamo bisogno di qualcuno che lo faccia. E poi, come ultima cosa, dico, la Warner Musica non è neanche una multinazionale, perché appartiene a una persona, un signore russo, per cui è una cosa sua, non è neanche una multinazionale e non ha niente a che vedere con la multinazionale Warner dei film, del cinema, per cui insomma è una piccola grande realtà del mondo della musica che ci permette di fare il disco al prezzo che abbiamo voluto noi di vendita, e ci hanno accettato tutto quello che chiedevamo, sono persone intelligenti. Ma direi che è il disco in assoluto della banda, più a nostra immagine e somiglianza. Siamo andati in un posto, noi siamo molto legati al fatto che i posti ti aiutino. Insomma, è chiaro che scrivere un disco in periferia di Berlino o scriverlo alle Hawaii non ti viene le stesse cose. Siamo andati da Jacopo Fo nella sua comunità di intelligenza, di brio, e poi lui come persona ti dà veramente voglia di superarti, di essere giusto, di essere onesto, di essere brillante, e questo abbiamo cercato di fare. Noi siamo considerati degli improbabili, per venire al tema centrale del disco, proprio perché consideriamo l'allegria un'arma, proprio perché siamo convinti che la felicità a livello di abbracci, di rapporti umani si possa trovare. Se la cerchi invece nel mondo della finanza, rubando, violentando, passando sopra i diritti delle donne, dei bambini, dei più derelitti, insegui una finta felicità che non troverai mai. Per cui insomma, questo è un disco forte, potente, perché è convinto di aver ragione, è convinto di essere nel giusto, e perché anche dopo 21 anni siamo un po' lenti, ma abbiamo imparato a seminare di energia anche il disco, e a suonare come sappiamo suonare noi anche in studio. Abbiamo avuto anche più tempo, abbiamo provato più strumenti, abbiamo scoperto delle chiavi che non sapevamo. Per esempio, togliendo la mia proverbiale chitarra ritmica, si era venuto a creare un posto gigantesco riempito dall'ukulele, che è molto più allegro ma anche molto più potente della chitarra. Abbiamo usato strumenti come il theremin, abbiamo usato delle sequenze di percussioni elettroniche leggerissime, di gran gusto, perché non ci appartengono più di tanto, ma insomma che hanno dato frizzante al sonoro. Abbiamo usato molti più fiati, molte più tastiere, visto che abbiamo un tastierista in pianta stabile. È un'orchestra diventata la banda, non è più una banda di chitarre e bonghetti come era all'inizio, anche se il nostro sound continua a essere riconoscibile anche dopo 3 secondi e basta di ascolto, che è la cosa che più ci preme. Insomma, essere riconoscibili nel cambiamento credo che sia un grande complimento. Le storie, questa volta magari non ci sono ritratti, ma ci sono delle storie anche con l'osservazione del mondo, anche quello piuttosto improbabile che ci circonda. Come sono nate le storie? Le storie sono nate appunto da immaginandosi di essere, perché in fondo eravamo in un bar, cioè eravamo in una piazza lì da Jacopo Fo, arrivava in continuazione viandanti, gente, persone che si mettono lì automaticamente, raccontano perché sono venute, da che problema arrivano, cosa vogliono risolvere, perché Jacopo è una specie di risolutore di Mr. Wolf. E ci siamo trovati in questo agorà, in questa piazza, in questo bar dove c'erano tutti i personaggi classici, insomma l'anziano pieno che ha parecchia più vita del giovane, il giovane comunque incazzato perché a una certa età devi esserlo, insomma tante storture, tante bellezze della nostra vita. Noi siamo stati come sempre ascoltatori e fedeli cronisti di quello che sentiamo, di quello che vediamo. A proposito dei temi, le donne, ma c'è anche il maschio in questo. più di uno, ce n'è più di uno, ci sono punti di vista, confidenze in una canzone che si chiama Punti di Vista, ci sono confidenze fra maschietti, perché anche noi ci perdiamo in confidenze sessuali, non solo voi signorine, e sono vere confidenze che ci hanno fatto, che a me mi hanno lasciato allibito e l'ho voluta riportare, chiaramente senza dire i nomi veri perché sarebbe stato antipatico, a quel punto era stupido chiamarli Giacomo, Antonio e Filippo, e allora li abbiamo chiamati Nuto, Don Bacchi e Pacio, che sono il nostro batterista, il nostro bassista, il nostro tastierista, che si sono trovati loro malgrado, soprattutto la spiegare. Mi chiedevo, gliel'avete detto dopo? Ma gliel'ho detto all'inizio, sono partiti benissimo e tutti contenti, e quelli rimasti fuori invece, tipo Andrea che è qui accanto a me, che protestava, io non ci sono. Arrivati al momento del disco abbiamo fatto una riunione proprio apposita, noi siamo un gruppo molto che si riunisce e vota, siamo democratici, ragazzi che facciamo, lasciamo i vostri nomi? Il primo che ha detto sì, gli altri non hanno voluto essere da meno, però uno si ritrova a essere un puttaniere incallito, l'altro si ritrova a andare a guardare la moglie che va con un altro, e il terzo ancora va soltanto con donne sposate perché c'è meno implicazioni amorose. Non vedo l'ora di farla dal vivo questa canzone. C'è addirittura una Saplan pour moi che mi sono chiesta come sia venuta fuori, perché quando ho letto la tracklist ho detto ma no, non è quella, invece è quella. Ma guarda, esattamente la stessa cosa mi sono detto io, nel senso che è stato un ammutinamento, è stato un golpe, non un ammutinamento, cioè io avevo detto no assolutamente, ragazzi io ci sono tre canzoni che non sopporto al mondo e questa è una di quelle tre, cioè io vengo dal Lussemburgo, dal Belgio, cioè questo ragazzo belga Plastic Beaton cantava questa canzone nel 77 e anche sua madre lo odiava, talmente era antipatico. Plastic di nome di fatto, di nome di fatto. Sono andato via dalla sala prove un quarto d'ora, sono tornato e questi rock and roll gliel'abbiamo fatta trovare pronta, mancava solo il suo cantato. No, mancava il mio cantato e mi sono vendicato perché ne ho fatto una versione a due voci e morale Finaz, ora gli tocca imparare il francese e saper cantare questa cosa entro breve perché deve saperla. Ed è tutto per questo Voci in Scena per oggi con la banda Bardot. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.